Commentiamo allora i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo, che hanno visto l'affermazione del centrodestra con la vittoria di Marco Marsiglio. Per commentare appunto questi risultati, noi siamo al telefono con Maurizio Acerbo, che è segretario nazionale di Rifondazione Comunista, nonché abruzzese, quindi insomma persona indicata. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ecco, la prima cosa che ti volevo chiedere, Maurizio, è come dire si è prodotto questo risultato, perché ho visto che sui social tu hai commentato che era abbastanza scontato. Beh, non c'era sondaggio che non prevedesse questo risultato. L'unica cosa sorprendente rispetto ai sondaggi, ma non una sorpresa per chi conosce le dinamiche elettorali, è che il Movimento 5 Stelle è partito a cavallo ed è tornato a piedi, perché nei sondaggi pensava di arrivare secondo, invece è arrivato terzo, perché è evidente che il PD ha contenuto la sua sconfitta con la moltiplicazione di liste pseudociviche. Erano ben 8 le liste e quindi diciamo i candidati locali e tutte le truppe messe in campo hanno contenuto la debacle, se consideriamo che 5 anni fa il centro-sinistra stravinceva in Abruzzo nella stessa giornata in cui Renzi trionfava alle elezioni europee, perché ci fu l'altra volta l'election day. Per il resto tutto come previsto e tutto molto desolante. Ecco, tu hai parlato del Movimento 5 Stelle, oggi i quotidiani titolano di un grande flop, della perdita del 20% dei consensi, ma in realtà non rispetto alle precedenti regionali, ma rispetto alle politiche, perché rispetto alle regionali precedenti la flessione del Movimento 5 Stelle è stata, di se non sbaglio, un paio di punti percentuali. E perché gli abruzzesi hanno votato di più 5 Stelle per come dire, le politiche e in Abruzzo non si fidano? No, a me sembra che il Movimento 5 Stelle ha avuto 5 consiglieri in regione, abbia dimostrato, tranne una lodevole eccezione del consigliere che poi ha preso più preferenze in assoluto, un'assoluta inconsistenza pari soltanto alla loro supponenza e il carico di speranze su di loro e anche di rabbia che è stato investito l'anno scorso da tanti, in Abruzzo hanno preso il 45%, si va dissipando, e mentre il centro-sinistra, candidando una persona autorevole e che in questi anni era stata un po' fuori dalle polemiche perché si trovava al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi non ci ha messo la faccia nel periodo più odioso delle politiche del PD, in qualche maniera è riuscito a fare un recupero. Però il vero dato di fatto è che la Lega diventa il partito egemone del centrodestra e riesce a rientusiasmare il popolo che un tempo riempiva le piazze per Berlusconi, e lo fa su una piattaforma politica e un linguaggio politico nettamente però più cattivo, razzista e violento, ma lo fa anche raccogliendo tanti bisogni popolari che non difende più neanche a livello di immaginario il PD, che viene percepito come il partito insomma di chi sta in alto e delle clientele e dei prodotti. Insomma, una situazione piuttosto inquietante. Non è la prima volta che il centrodestra vince l'Abruzzo, di solito la tradizione da anni e anni a questa parte dell'alternanza del sempre uguale: vince il centrodestra, fa un trionfo, fa schifo, perde, va il centrosinistra, fa schifo uguale, anche peggio, rivince il centrodestra. La differenza però è che questa volta è il centrodestra di Salvini, e tra l'altro erano talmente forti che hanno candidato un romano che non è manco nato in Abruzzo, non è residente in Abruzzo, non ha neanche votato ieri, e che fino alla sua candidatura, questo Marsiglio, in Abruzzo non conoscevano neanche il 90% dei dirigenti del centrodestra e dei consiglieri regionali, ed è tutto dire. Praticamente se candidavano una sedia o un o una bicicletta, avrebbero vinto lo stesso. Insomma, questo fa ancora ovviamente più impressione. E, vedevo tra le prime analisi del voto che ci sono che i maggiori consensi del centrodestra sono arrivati dalle città dell'Aquila, di Teramo, e le prime parole tra l'altro di Marsiglio riguardano la ricostruzione. Questo è un tema ancora forte? Sì, vabbè, è un lavoro di lunga lena, ma... E tra l'altro ti faccio notare che non c'è solo la situazione dell'Aquila, ma a Teramo ci sono fenomeni più recenti ma consolidati di disagio e problemi ancora irrisolti. Quindi siamo in una situazione in cui innanzitutto sconfitto è il governo del Partito Democratico di questi anni a tutti i livelli. Però vorrei segnalare, perché può sfuggire a analisti esterni, diciamo, che l'altro elemento desolante di questa vicenda è che per la prima volta la sinistra non era presente in queste elezioni regionali, perché la scelta di Sinistra Italiana è stata all'ultimo momento quella di andare con il Partito Democratico nella lista del Presidente. Questo non è servito a invertire la tendenza. Io credo che sarebbe stato utile che ci fosse una lista unitaria di sinistra e dei movimenti che rappresentasse le lotte dell'altro Abruzzo, per scelte a mio parere sbagliate e speculari di tanti soggetti, questa cosa non si è determinata, e l'assenza di un'alternativa pesa, perché se tu fai la somma di chi non è andato a votare, delle schede bianche e nulle, la maggioranza delle abruzzesi e degli abruzzesi non ha votato a queste elezioni, e quindi urge in questo paese costruire qualcosa di simile, uno spazio politico simile a quello che c'è in tutti i paesi europei, a sinistra, antiliberista, perché altrimenti noi rischiamo, man mano che si sgonfia il Movimento 5 Stelle, di dover fronteggiare un consolidamento di una destra sociale e razzista allo stesso tempo assai pericolosa, e non è con la mucchiata col PD che affrontiamo questa cosa. Certo, hai fatto bene a sottolineare anche questo aspetto, che è sicuramente importante e centrale. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda invece il livello nazionale. I risultati dell'Abruzzo in qualche modo condizioneranno anche l'atteggiamento di Salvini nel governo giallo-verde? Io penso di sì. Salvini esce nettamente rafforzato e il vincitore di queste elezioni. Salvini ha fatto una Salvini Di Maio sono stati in Abruzzo praticamente quasi tutti i giorni a fare iniziative, soltanto che progressivamente Di Maio andava sempre più in luoghi chiusi insieme a Di Battista e alla loro presidente, mentre Salvini si è fatto tutte le piazze delle città abruzzesi con una presenza di massa davvero notevole. E voglio dire, rispetto a questo non basta gridare al fascismo, invece da ragionare molto sul perché di questo fenomeno e se il tipo di opposizione che si sta facendo a Salvini sia quella giusta. Io francamente penso che finché Salvini sarà il difensore dei lavoratori che vogliono andare in pensione prima di essere diventati incapaci di godersela, finché Salvini passa come l'amico e il difensore del popolo, davvero in questo paese ha un'autostrada davanti. Io ti ringrazio, ti auguro buona giornata. Buona giornata anche a voi.